Noi come non una di meno stamattina stiamo sostenendo questo presidio delle lavoratrici della IUX, molte delle quali sono anche donne migranti, che l'anno scorso hanno ingaggiato una dura lotta facendo degli scioperi e dei picchetti e sono riuscite a vincere contro capi e capetti che nel luogo di lavoro le avevano molestate, avevano utilizzato la molestia come uno strumento di disciplina e di ricatto sostanzialmente. In particolare quest'uomo è stato licenziato, è stato cacciato. Però noi, come non una di meno, sappiamo che questa non è la battaglia contro un singolo, ma è la battaglia contro un sistema e contro un tipo di violenza, appunto quella maschile sulle donne, che è sistemica e che riguarda anche lo sfruttamento sui luoghi di lavoro. E quindi siamo qui a sostegno delle facchine che oggi sono processate perché hanno scioperato e quindi verranno punite per aver espresso, diciamo, il loro rifiuto della violenza, e continueremo a farlo domani mattina alle 9 in Piazza Maggiore e poi di nuovo alla sera con un corteo dove appunto scenderemo in piazza con tutte le altre lavoratrici, non lavoratrici, studentesse, precarie, ma anche uomini, tutta la comunità LGBTQ, per appunto esprimere la nostra contrarietà a questa violenza sistemica e per, diciamo, dare voce a quello che domani sarà comunque uno sciopero globale che si svolgerà in ben 60 paesi in tutto il mondo.